Va bene. Alcuni ascoltatori dicono: ma perché dovete dire strategie di uscita quando in italiano si traduce con soluzioni? Sì, chiamiamole anche le soluzioni per uscita. In realtà le strategie di uscita a me piace un po' di più, perché l'uscita da una crisi prevede una strategia. Una soluzione sembra un po' più miracolistica, però io non resterei sul livello di traduzione e semantico. Ringrazierei Bella Romano in collegamento con noi da Francoforte e passerei al prossimo tema. Che si chiama borsa che ha chiuso bene, perché ben intonata soprattutto in America, più 1,8% da alcuni dati. Tasso di produttività americano più 9,5% nel terzo trimestre dell'anno, un dato nettamente superiore, ci si attendeva un 6,5%, quindi l'America sta tornando a marciare sulla produttività non agricola. E poi i sussidi di disoccupazione, questo dato è un po' più ballerino perché cambia di settimana in settimana, però questa settimana 20.000 sussidi in meno, per cui dato migliore delle stime, e complessivamente le richieste di sussidio sono state 512.000, 20.000 richieste in meno. E poi dal Giappone, a sorpresa, questa sì una sorpresa totale, la Toyota è tornata inutile nel secondo trimestre. Il Giappone ha dei trimestri un po' diversi dai nostri, ma insomma nel secondo trimestre dell'anno di bilancio ha fatto 162 milioni di euro di utile per la Toyota, che per carità rispetto all'anno fa è un 80% in meno, ma insomma è tornata a registrare utili. Così come è tornato il gruppo francese BNP Paribas a registrare utili, questa è una costante di molte banche americane e anche europee, 1.300 milioni di euro, più 44% rispetto a un anno prima. Quindi questa è proprio l'uscita meglio di ogni attesa delle banche d'affari. Anche BNP Paribas ha avuto i suoi problemi con i prodotti tossici, soprattutto Società Generale, ma insomma sono state bravissime, hanno ripulito tutto e adesso già macinano utili del 45% quasi in aumento rispetto a un anno fa. Complimenti alla banca BNP Paribas, le informazioni meteo, la pubblicità e poi diamo anche alcuni aggiornamenti. Vedo che alcuni svizzeri ci scrivono perché dicono che il drone usato dagli svizzeri non era per controllare i nostri finanzieri, ma per catturare una banda di ladri dell'est europeo che avevano già svaligiato diverse case nella zona di confine. Va bene, sarà anche così, meglio che la guerra tra Svizzera e Italia non ricorra ai droni. Meteo e poi i mercati. Focus Economia. ...17:36 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso per commentare la borsa e poi invece passare agli altri temi di questa puntata. Vedo alcuni messaggi che dicono: ma come, avete sempre criticato il Presidente della Banca Centrale Europea e adesso, addirittura alcuni dicono, lo prendevate in giro e adesso lo utilizzate come un così, con la sua autorevolezza. No, l'abbiamo preso in giro e anche in maniera insistita quando nel 2008, a luglio del 2008, la Banca Centrale Europea alzò i tassi di interesse dicendo che il vero problema dell'Europa, dell'area euro, era l'inflazione, e poi ci siamo beccati la peggiore crisi da 29. Lì, secondo me, ci si poteva aspettare anche delle scuse che chiaramente non sono mai arrivate. Sui dati che vi abbiamo letto, volete sapere di Telecom Italia come ha reagito in borsa? Poco fa Franco Bernabè ha dichiarato: la vendita di Hansnet non ha effetto sul dividendo, la cessione non avrà effetti sulla remunerazione degli azionisti di Telecom e contribuirà alla riduzione del debito, quindi nessun effetto sul dividendo per quello che riguarda la cessione da 900 milioni di euro. Mentre le generali stanno uscendo e sono soddisfatto, i conti sono buoni, leggermente superiore al consenso, sono appena affermato uno dei soci e consigliere di amministrazione delle generali, ossia il numero uno di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, al termine del consiglio di amministrazione che è appunto finito poco fa e ha approvato la trimestrale di gruppo. Appena arriverà la trimestrale del gruppo generali, vedremo se possiamo anche in

legalmente che quel pezzo di terra, misero, miserissimo, però è loro, è una proprietà che possono avere, che possono trasferire, che anche quella casa potrebbe, è loro, che viene certificata, che nessuno gliela può rubare, che non arriva l'ennesimo latifondista a portargliela via. È populismo? Secondo me no. Ancora De Soto e la crisi, preoccupatissimo dei rischi che questa crisi può portare. Lo facciamo ascoltare dopo il GR, perché stiamo arrivando proprio a ridosso del GR, anche perché la crisi, in questo caso il terzo mondo, l'ha subita. Un paio di risposte veloci. Alcuni di voi dicono: no, ti stai sbagliando, la fame nel mondo è aumentata con la globalizzazione. Attenzione, non è vero, cioè obiettivamente non è vero, sono aumentate le differenze nei paesi occidentali, questo è innegabile, cioè tra chi tanto ha e chi poco ha, questi sono dati economici assolutamente noti, ma è anche vero che decine di milioni di persone sono uscite dalla soglia di povertà in questi decenni della globalizzazione del commercio mondiale. Pensate a cosa è successo all'Asia, ma anche a larghe fette del Sud America. Non a caso si dice BRIC per dire Brasile, Russia, India e Cina, come le vere potenze emergenti. Di banda larga parleremo nella seconda ora del programma. Vedo che alcuni dicono: ma perché fai il benaltrismo con il ponte sullo stretto? Cosa c'entra dire invece fanno il ponte? No, secondo me c'entra e ne parleremo, perché i soldi per alcune cose ci sono. I 4 miliardi per la Sicilia a luglio dei fondi europei si sono sbloccati in un secondo, come Lombardo e Micichè hanno minacciato la scissione. Poi invece 800 milioni per la banda larga, che servirebbe a portare questo paese nel resto d'Europa come infrastrutture, non ci sono e restano congelati finché la crisi non finisce. Secondo me la prolungheranno in questo modo, ma è una mia opinione. GR, e poi ne parliamo con chi ne sa veramente. 349-238-6666 per gli sms. Focus Economia. :18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, miserrime, non miserissimo, chiedo venia per l'errore, così mi correggo con l'affermazione di prima. Andiamo avanti invece con De Soto, e quindi con la sua teoria che per salvare milioni di poveri del terzo mondo basterebbe che venissero riconosciuti i diritti di proprietà a queste persone, del pezzo di terra, della baracca in cui vivono, sarebbe già qualcosa, per quanto pochissimo, ma qualcosa da avere come proprietà, come diritto, e anche da trasmettere come eredità. Vedo che alcuni di voi contestano questo approccio. Mi sembra che però l'approccio dell'aiuto incondizionato al terzo mondo non abbia portato grandi risultati. Comunque Marco Magrini con Hernando De Soto ha discusso anche di come questa crisi si sia generata, vista dal terzo mondo più interessante, o perlomeno più originale rispetto a tante altre versioni che già conosciamo, e di come da questa crisi si potrebbe uscire. Per quello che riguarda tra l'altro il Sud America, è vero che in molti paesi esiste la proprietà privata, in Argentina esiste, ci mancherebbe, non esiste per milioni di persone anche in Sud America, quando appartengono alle fasce più marginali della popolazione, quando abitano nei ghetti o nelle bidonville, e di questi ci stiamo occupando in questo momento. Poi passeremo alla banda larga e alle scelte e alle priorità che si dà un paese quando ha pochi soldi da spendere. Comunque De Soto sul perché gli stati occidentali non fossero pienamente consapevoli di questa crisi. Unconscious because every time I coming from Latin America. Non consapevoli delle cause che hanno portato a questa crisi. Ogni volta che lascio l'America Latina, vedo come gli occidentali spiegano le ragioni della loro crescita economica. Viene sempre citato l'aspetto della civiltà e della cultura occidentale. Non credo però che sia una risposta valida. Non credo sia sufficiente rimandare alla propria educazione o cultura. Penso invece che il successo di cinesi e indiani ora, come dei giapponesi prima, abbia poco a che fare con l'aspetto della civiltà in senso lato, che è qualcosa che non si può imparare né insegnare. Credo che il successo di questi paesi abbia molto a che fare con un sistema legale che è andato via via migliorando nel corso dei secoli.